mio sole in un bordello, le mie labbra si fanno guardare. Profetto, mi rilasso, sono una commessa di lusso. Profetto, mi rilasso, ho un forte odore addosso, e i cani mi salgono quando passo. Profetto, mi rilasso, il chiodo poliziotto si sfondona di sotto. Rossetto, il grasso, che da quando l'ho messo non sono un successo, non sono un successo. Rossetto, il grasso, io sono in un bordello e le mie labbra si fanno guardare. Io sono in un bordello e le mie labbra si fanno guardare. Si fanno guardare.